Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È giovedì, eh? E siamo a febbraio, vi dirò di più. Il 5? Sì, il 5. 5 febbraio 2009, 87.900, la modalità. La nostra frequenza, questa è Radio Onda Rossa, Visionari, il consueto appuntamento con il cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per avere le informazioni, tutte le informazioni sulla trasmissione, potete consultare il sito, ossia ondarossa.info, dove troverete la puntata precedente da scaricare se volete riascoltarla, e poi gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in sala e poi i link per dare un'occhiata a qualche nostra recensione e poi la programmazione televisiva sempre per quanto riguarda i film su piccolo schermo stavolta. Allora, ho tanti ospiti e tanti visionari, poi ci sono diverse uscite interessanti questa settimana, ma soprattutto alcune, e ne parleremo con i numerosi visionari che si alterneranno. Allora, un attimo di pazienza e cominciamo con il flusso. Daniela. Ciao, Daniela Catelli, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Impegnatissima come al solito, di corsa, lavoro, però bene. Una bella giornata qua a Roma, finalmente, sole, freddo, ma chi se ne frega, insomma, dopo tanta acqua. Sì. Senti, ieri prima della proiezione di Religious, mi hai raccontato un po' di quanto sei indaffarata per questo programma che tu curi su Coming Soon Television, sì, e di cui ci parlerai. Esatto, infatti ero proprio adesso al montaggio della nuova puntata, che qui è una catena di montaggio infinita. Il programma si chiama Horror Night ed è l'unico spazio sulle TV italiane, cercate pure generaliste, satellitari, digitali, quello che vi pare, dedicato al cinema horror. Quindi ne sono molto contenta perché appunto sono felice di questo programma. che mi dà un po' l'occasione di fare in video quello che ho fatto nel libro di cui avevamo parlato, no? Chuck si trema. Sì. Cioè raccontare un po' il cinema horror in pochissimo tempo, purtroppo mezz'ora, e non mezz'ora intera, mezz'ora televisiva che comprende anche, poi vedrò, un cortometraggio, di parlare del cinema horror per temi. Cioè, quindi non so, questa puntata che va in onda venerdì, perché il programma va tutti venerdì alle 11, in occasione dell'uscita del remake di venerdì 13, ovviamente parleremo di slasher. Mm-hmm. E quindi dei classici, del vero venerdì 13, dei sequel, di tutti i film che hanno segnato la storia di questo sottogenere. Per esempio, abbiamo parlato di donne, di paure, di zombie, anche di mostri. La settimana prossima avremo una puntata su Lupi Mannari, quindi ovviamente illustrandole con clip, con tantissime clip dei film più famosi e anche più sconosciuti, perché insomma una cosa che mi piace fare è trovare sempre nella puntata il film inedito, il film che non si vede da un sacco di tempo e che magari uno ha visto da bambino e non si ricorda. Devo dire che dal riscontro che ho avuto anche da parte degli appassionati sembra che sia riuscita insomma a fare quello che avevo intenzione di fare, perché ovviamente il tempo è poco e i mezzi pure, e quindi facciamo miracoli. Però devo dire che è un prodotto ottimo, una montatrice estremamente creativa, che appassionata del genere, poi esatto, appassionata del genere, importante, che è fondamentale, sì. Perché non si deve girare nei momenti in cui ci sono le scene più splatter, ovviamente non va in onda in fascia protetta, e quindi possiamo un pochino far vedere un po' più insomma di sangue, di nudi e di cose che normalmente non si vedono. Senti Daniela, che fascia temporale coprirà la trasmissione? La trasmissione inizia alle 23 del venerdì e dura appunto mezz'ora, e poi va in replica la domenica a mezzanotte 45, il martedì alle 23. Tra l'altro, chi non ha il satellite e magari ha digitale terrestre se lo può vedere appunto sempre su Coming Soon, sul digitale, altrimenti volendo anche in streaming sul nostro sito, che è www.comingsoon.it, cioè in diretta, quindi il venerdì sera alle 23. E una cosa a cui tengo molto, e t'avevo detto anche ieri, è che in ogni puntata ospitiamo un cortometraggio di giovani autori italiani. Sì, finora sì, ho sì, avuto sì, delle cose egregie, devo dire, anche cose dilettantesche ma fatte con molto gusto e molta ironia e molta intelligenza, per cui sì, abbiamo spaziato da prodotti molto professionali come il cortometraggio di Andrea De Sica, L'inferno sono gli altri. Andrea De Sica, figlio di Manuel, l'ha realizzato al Centro Sperimentale, è molto bello, proprio anche molto professionale, a corti tipo Safira di Carlo Reva, invece estremamente divertenti e con una bella idea, diciamo, anche se magari la realizzazione non è il massimo. Però devo dire che il panorama è molto variegato, quindi io farei un appello, insomma, visto che ho questa possibilità, certo, ragazzi, se avete un cortometraggio horror nel cassetto, se l'avete anche già mandato a festival, l'avete messo anche sulla rete, però sulla rete, cioè voi sapete che vedersi un film su YouTube non è la stessa cosa che vederselo su un 32 pollici o più, insomma, in televisione, sì. Quindi se lo volete vedere in TV, mandatelo. Basta che scriviate a horrornight@comingsoon.it e io vi mando la liberatoria, e poi mi mandate il DVD e insomma vediamo se è meritevole, verrà trasmesso. Ad esempio questa settimana abbiamo un corto molto carino che si chiama War Mind, non è assolutamente un prodotto professionale, però è estremamente divertente, ha una bella idea, e cioè, a me piace anche quello, no? Vedere magari quello che gli americani chiamano the diamond in the rough, cioè il diamante grezzo, no? Quello che ancora, vedere se ci sono dei nuovi talenti, e devo dire che ovviamente non deve essere un cortometraggio di 20 minuti, perché il programma dura 26 minuti e quindi non più lungo di 10-11 minuti. Ho capito. Però ecco, sì, dimmi. Vai, dimmi. No, dicevo, questo insomma è un'altra cosa a cui tengo molto, perché non mi va di essere sempre io che parlo di horror, okay, ma mi piace anche vedere delle cose fatte da gente che ama il genere, no? Sì. Quindi niente, la trasmissione, ecco, aggiungo anche questo, anche un blog dove sono elencati, ci sono anche dei cortometraggi che abbiamo trasmesso su questo blog, e c'è tutto l'elenco delle puntate coi film insomma di cui abbiamo parlato, e il blog si chiama all'indirizzo The Horror Night, col articolo, perché Horror Night non era disponibile, .wordpress.com. Mm-hmm. E niente, insomma, il venerdì sera, tutti i venerdì sera alle 23. Senti, diciamo, per questo spazio. Mi hai detto, avete cominciato a dicembre, andrete avanti fino a giugno, sbaglio? Sì, l'idea sarebbe quella, sempre ammesso di avere il materiale sufficiente per parlare comunque di un genere, però insomma potremmo fare delle puntate monografiche, diciamo che è una trasmissione in continua evoluzione. Ecco, proprio in relazione a questo, al fatto che insomma all'aspetto fondamentale del materiale a disposizione e e del lavoro in continuo divenire, rispetto agli inizi, a quando hai cominciato, ha subito già trasformazioni la trasmissione? Vi siete indirizzati su qualcosa in particolare? No, diciamo che la trasformazione è stata solo nel fatto che è diventata molto più ricca, perché ovviamente all'inizio fai anche un po' dei tentativi, no? Vedi di quanti film riesci a parlare, poi quando vedi che riesci anche a parlare di 20 film a puntata in maniera non superficiale e soprattutto a farli vedere, perché quello che mi interessava era non di far vedere magari la clip di un minuto, due minuti del film, ma magari quei 30 secondi che ti sono rimasti nell'immaginario, no? Quando hai visto il film la prima volta, e vederli, devo dire, tutti insieme, insomma, spaziare dagli anni, abbiamo messo anche dei film vecchi ovviamente, degli anni 40, 50, ma per esempio in questa puntata che va in onda venerdì, che è sullo slasher, abbiamo anche il primo film di Francis Ford Coppola, Demenzia 13, che è un horror in bianco e nero, e devo dire che è emozionante, ecco, rivederli tutti insieme, no? I maestri e quelli che anche i mestieranti, no? Alle volte si notano anche delle finezze che non avresti altrimenti. Per esempio io lo slasher non è che lo amo particolarmente, però devo dire che questa puntata è molto significativa, perché ci sono un sacco di cose diverse, c'è il film inedito di David Arquette, The Tripper, che è bellissimo e che è uno slasher appunto sull'onda del cinema di Wes Craven, ci sono cose che anch'io riscopro con piacere, ecco. Quindi l'evoluzione è in quel senso, che poi ti viene voglia di andare oltre, indagare ancora di più in questo spazio, veramente. Senti Daniela, invece, visto che ci siamo incontrati a quell'anteprima di ieri, e visto che il documentario esce venerdì, Religious, Vedere per credere, a questo punto ti chiedo cosa ne hai pensato. Io l'ho trovato estremamente necessario, l'ho detto in questo momento soprattutto, mi è sembrato un film, devo dire, ecco, la critica è che non doveva essere doppiato, perché doveva essere sottotitolato, perché è un documentario, perché perde molto della sua immediatezza, e chi capisce l'inglese magari si divertiva pure di più, no? Sentire gli accenti, le sfumature, le cose, eccetera, e seguiva comunque benissimo il discorso, perché non è che, insomma, è un documentario molto parlato, sono delle brevi interviste a personaggi spesso assurdi, no? Quindi era estremamente divertente già così, però devo dire che è un film che è una satira, e quindi ovviamente secondo me per certi versi è un po', potrebbe essere accusato di semplicizzare troppo, insomma, allora, la realtà. Per chi ci ascolta, spieghiamo anche che dello stesso regista di Borat, ma a condurre tutto il documentario c'è Bill Maher, che celebre comico americano, di madre ebrea, di padre cattolico, cresciuto nella cultura cattolica, che a un certo punto della vita ha detto: ma perché dobbiamo credere in tutte quelle cose che ci raccontano? Ed ha analizzato soprattutto la religione cattolica, per come è vissuta negli Stati Uniti, ma anche quella ebraica e quella islamica. Sì, ce n'è per tutte, cioè per i protestanti, gli evangelici, i pentecostali, i mormoni, la parte dei mormoni l'ho trovata corta, ma è fantastica, scientologi, ecco, forse anche troppi, no? Cioè, però diciamo le principali sono le tre religioni monoteistiche. Lui in Italia è poco conosciuto, in America questo show Real Life with Bill Maher, in cui parla appunto di questi temi, cioè la storia è sua, comunque la regia di Larry Sharks, ma i contenuti sono suoi, no? E io ho trovato un film estremamente interessante, e poi è stato interessante anche poi assistere, c'è stato un dibattito con esponenti della religione evangelica protestante, cioè ebraica, musulmana, e l'unico che non ha, e atei razionalisti, l'unico che non ha, e agnostici, e l'unico che non ha voluto partecipare come confessione religiosa, l'unica, insomma, rappresentanti che mancavano erano quelli della religione cattolica, perché evidentemente non amano il confronto, E a me è molto colpito che questi esponenti di varie religioni credenti hanno detto che il film era molto utile, perché toccava temi che loro sentono molto da vicino. È un film molto divertente, non si sono sentiti assolutamente offesi, quindi anche un credente può vedere quel film senza sentirsi offeso, perché quello che in realtà è sotto attacco in questo film è il dogmatismo ed è la passività della gente che accetta, no, queste favole senza mettere minimamente in discussione, no, cioè anche l'uso politico che ne viene fatto. Poi ci sono delle perle assolute, come un'intervista con un senatore, no, che richiama inquietanti paralleli con i nostri senatori, no, a livello di ignoranza. Quindi un po' tutto il mondo è paese, però per esempio in America quello che non c'è, c'è un pluralismo reale che in Italia appunto. Infatti devo dire che la parte della religione cattolica forse è quella che tocca meno, che lui viene a Roma, dice che non è riuscito a intervistare nessuno, insomma c'ha solo un paio di interviste, e tra l'altro sono quelli che fanno la figura migliore, insomma i sacerdoti intervistati. Però è un film veramente da non perdere, anche perché esce in solo 30 copie e non so quanta vita avrà, ecco. Sì. Bene Daniela, allora ti ringrazio. Io ringrazio voi. E spero a presto, un abbraccio. A presto, ciao, grazie. A tutti, ciao. Pomeriggio a Mario Mazzarotto del Movimento Film. Buon pomeriggio. Come va? Bene, bene, tutto bene, grazie. Allora, ci sentiamo perché vi occuperete della distribuzione di un film di Vaida, ossia Katyn, che esce questo venerdì. Esce venerdì in tutta Italia Katyn, sì. È un film che racconta un episodio poco noto della storia polacca. Racconta un episodio tragico in cui circa 22.000 ufficiali dell'esercito polacco sono stati imprigionati durante l'invasione nazista e durante l'invasione sovietica della Polonia. Intanto come vi è, insomma, l'avete visto in qualche festival e poi come avete proceduto? Il film è stato presentato l'anno scorso al Festival di Berlino come evento speciale. Sì. È stato candidato dalla Polonia come miglior film straniero all'Oscar, ed è un film che il maestro Vaida ha realizzato dopo 10 anni in cui ha cercato di mettere insieme le risorse e la storia giusta per realizzare questo film, che lo tocca particolarmente perché racconta la storia di suo padre. Suo padre è stato uno degli ufficiali che è stato imprigionato prima e poi ucciso durante questo tragico episodio della storia polacca. Voi come siete arrivati alla distribuzione di questo titolo? Beh, io avevo visto il film e l'avevo amato molto, e mi sembrava strano che in Italia non riuscisse a essere visto questo film, che rappresenta un momento importante e doloroso della storia europea e racconta un episodio storico poco conosciuto, e mi sembrava importante che fosse visto anche dal pubblico italiano. Forse i meccanismi della distribuzione in Italia sono sempre un po' complicati da spiegare, quindi la Movimento Film, che intende promuovere il cinema d'autore che trova poco spazio in Italia, riesce a trovare in questo film un'occasione formidabile per far conoscere un film davvero importante. Ecco, rispetto alla Movimento Film, dicevamo il discorso sul cinema d'autore, quali difficoltà più forti trovate rispetto alla, proprio alla distribuzione di pellicole non, diciamo così, tra virgolette, non commerciali? Beh, le difficoltà sono tantissime, bisogna vincere le resistenze dell'esercizio e degli esercenti, che pure tra questi ce ne sono moltissimi che amano questo genere di film, e molto pubblico cerca in questo genere di film. Purtroppo l'esercizio è stretto a volte da delle distribuzioni commerciali che hanno le loro esigenze, impongono le loro regole, lasciando poco spazio, devo dire sempre meno, ad iniziative in tipo questa della Movimento Film, che pure presenta un film di indubbia qualità artistica e importanza storica. Che poi in realtà il pubblico, quando è messo di fronte alla possibilità di scegliere, non è vero che non li va a vedere i film d'autore. Li va a vedere come, bisogna farglieli arrivare, ma li va a vedere come. Tutti mi consigliano di continuare questa avventura, io invece insisto, perché sono uno spettatore che ama i film della Movimento Film, quindi, come me molti altri. Il problema è riuscire a farli arrivare al pubblico questi film, e questo a Roma ci riusciamo grazie a degli esercenti illuminati, ma non solo a Roma, in tutta Italia. Fin da domani è in tante città italiane, più riusciremo a farlo vedere, più come al solito poi si riuscirà ad aumentare il numero delle sale che ospiteranno casting. In qualche modo vi siete mossi per un eventuale circuito di sale in tal senso? Sì, assolutamente, noi abbiamo una rete di esercenti che amano il film d'autore, che lo sostengono, lo promuovono e che collaborano con noi a far circolare il film. Quindi questo fa parte del nostro lavoro, della nostra rete. Non è facile, ma insomma possiamo contare su ottimi esercenti. Bene, allora in bocca al lupo e a risentirci magari prossimamente. Crepi il lupo e grazie. ciao grazie. Mario, ciao Federico, ciao. Era Mario Mazzarotto di Movimento Film per la distribuzione del film Katyn nelle sale da venerdì prossimo. Oh, e prima tra l'altro ho sbagliato proprio data, oggi è 12, non 5. Andiamo avanti per inviarci email ondarossa@ondarossa.it, mandarci un fax 06 44 63 616. Vincenzo Marra, bentornato e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Come stai? Andiamo. Andiamo, dai. Allora, con te per parlare questa volta di un tuo documentario, il grande progetto che sarà presentato, credo anche alla tua presenza, no? All'interno della rassegna Italia Doc alla Casa del Cinema di Roma. Sì. Oh. Allora, intanto cominciamo dall'idea che ti ha mosso a questo progetto. Beh, l'idea nasce, insomma, io oltre alla carriera di finzione ho portato sempre avanti questo discorso sui film documentari che faccio con grande passione, dedicandoli un po' alla mia città, Napoli. Sì. E quindi questo si inserisce in un contesto più largo di questi film documentari, cominciati con un film che si chiama Estrema la Massa, che il cui soggetto era sui tifosi del Napoli, poi sul Tribunale di Napoli, e questo chiudeva appunto un'ideale trilogia sui luoghi di Napoli, cioè quello che riguarda poi paradossalmente il futuro, cioè questo questa ex fabbrica di Bagnoli, che è un luogo che dovrebbe essere riconvertito da tanti anni in uno spazio di grande qualità della vita. Mm-hmm. In realtà è un modo appunto per raccontare, partendo dalla mia città, anche un po' quello che succede in questo paese. Mm-hmm. Senti, sulla riconversione di Bagnoli cosa hai scoperto girando? Ma detto così sembra un po', potrebbe sembrare un po' riduttivo, insomma, è un progetto che magari in un altro paese, diciamo pari a noi, potrebbe essere anche in maniera portata avanti in maniera migliore. Mm-hmm. E questo anche a detto di coloro che stanno lì a lottare contro le burocrazie, tutte le cose che sappiamo benissimo. È un'occasione importante, straordinaria per la città di Napoli, non solo, anche perché parliamo di una delle zone più belle del mondo, e in più c'è anche una scommessa, perché si dovrebbe fare la bonifica più grande d'Europa, proprio a Napoli. Mm-hmm. E in realtà poi ti accorgi che ci sono sempre difficoltà, come ripeto, da una parte la burocrazia, da un'altra parte la politica che non aiuta. Che la politica sembra che giochi solo per la propria squadra, quando non si è capito che la propria squadra è il paese nel complesso. Mm-hmm. o la città in questo caso. Mm-hmm. E invece per ostacolare un'opera, se quest'opera viene condotta da persone esponenti a sinistra, i concorrenti sembra che non capiscano che poi ci sono tanti soldi, tanta fatica e poi soprattutto tante possibilità buttate. Ecco, questa è una cosa che mi è apparsa un pochino chiara, l'ostruzionismo, la voglia di non capire che poi dietro questo tipo di atteggiamento non si sta facendo una partita di calcio, ma stanno mettendo in piedi milioni di euro, tempi, soldi, possibilità di sviluppo, possibilità di lavoro per i giovani. Mm-hmm. Detto questo, le persone che ci lavorano, che mi hanno dato la grande disponibilità di entrare in questo luogo praticamente chiuso, diciamo, perché chiaramente essendo nell'occhio del ciclone stanno ben guardinghi, però io sono riuscito ad entrare in questo luogo e devo dire che le persone che ci lavorano, nonostante tutto, mettono tutto la loro professionalità, il loro cuore, la loro esperienza per cercare di portare avanti questo progetto che sembra sempre un po' impossibile. Senti, nella programmazione di Italia Doc, quando è prevista la proiezione e la tua presenza alla Casa del Cinema? È prevista mercoledì, mi pare che è 18, diciamo, non, è 18, mercoledì 18. Mercoledì 18, sì. Il pomeriggio. Sì, sì, sì. Poi comunque si può consultare anche il programma sul sito della Casa del Cinema. La prossima settimana ti vedrai in due proiezioni. Sarà proiettata anche l'udienza è aperta. Sì, l'udienza è aperta il 19, il giorno dopo, giovedì all'Apollo 11. E sono riuscito a coinvolgere una persona importante che però non posso dire chi è. E quindi è un'occasione anche quella per riparlare di Napoli, insomma, della realtà che ci circonda ogni giorno di più. E quello in occasione della finestra del Salina Doc Fest che si tiene, non ricordo se ogni giovedì, comunque per una serie di giovedì all'Apollo 11 vicino Piazza Vittorio, insomma. Senti Vincenzo, sei impegnato in qualcosa per quanto riguarda film o documentari? Sono sempre impegnato, ma per garanzia non diciamo niente. Comunque tutto bene, tutto procede. Andiamo. Andiamo. Bene, allora ti ringrazio, ci si vede la settimana prossima, mercoledì 18 alla Casa del Cinema, giovedì 19 all'Apollo 11, prima con il documentario Il Grande Progetto, invece giovedì 19 con l'udienza è aperta. Un abbraccio. Grazie e a presto. A voi. Ciao. Vincenzo. eccolo il nostro Valerio Ao San Marco. Come stai? Bene, tornato. Dai. Sì, tornato fra voi. E allora... ti stai vedendo anche diverse cosette? Beh sì, cerco di rimettermi al passo, come si dice. Cerchiamo di arrivare all'appuntamento degli Oscar un po' preparati, visto che qui in Italia insomma le uscite di questi giorni si concentrano molto sui film che il prossimo 22 febbraio saranno protagonisti all'81esima edizione degli Oscar. Diciamo che i 5 film candidati come miglior film e miglior regia li ho visti tutti. Senti, e per quanto riguarda, intanto cominciamo dalle uscite di questo weekend, di venerdì 13. Beh, la prima insomma è questa che hai già annunciato tu, venerdì 13, che ho visto ieri, insomma Marcus Nispel dopo il remake di Non aprite quella porta, ancora prodotto da Michael Bay, si cimenta con un altro caposaldo dell'horror insomma degli anni 80, venerdì 13, che nell'80 uscì già come una sorta di clone ovviamente meno brillante rispetto ad Halloween, proponendo nuovamente la figura dell'assassino mascherato, no? di Jason, una sorta di sintesi fra il Myers di Halloween e il Leatherface di Non aprite quella porta. L'operazione riesce nel momento in cui si accetta con bontà il fatto che mantiene quello che promette. Per il resto insomma ecco, è un film che andranno a vedere i cultori, ma che nulla aggiunge, nulla toglie a quanto già visto in altre precedenti pellicole. Senti, invece di cosa vale la pena occuparsi per questo fine settimana? Ma intanto per farsi un'idea di quello che è il pluricandidato ai prossimi Oscar, sicuramente una chance andrebbe data al curioso caso di Benjamin Button, anche se personalmente non mi sento di consigliarlo agli amici, ecco. Sono d'accordo. È un film secondo me molto sopravvalutato, un film di un'ambizione elevata e che secondo me non riuscirà ad arrivare a nessun tipo di pubblico, fondamentalmente. Ovviamente però insomma candidato a 13 Oscar bisognerebbe vederlo, quantomeno per capire perché altre pellicole non sono state candidate. Io la butto lì, insomma, io sono un strenuo difensore del Cavaliere Oscuro, anche se capisco che non è un film che possa piacere a tutti, però insomma non candidarlo nemmeno per la miglior regia mi è sembrato abbastanza singolare. Lo stesso The Wrestler, per quanto possiamo essere d'accordo che senza Mickey Rourke giustamente candidato e insomma spero poi alla fine premiato come miglior attore, sarebbe stato un film diverso, però è un film che a livello, quantomeno a livello emozionale, dà molto di più rispetto a questo Benjamin Button, che è un film supportato magnificamente dal trucco, dall'assunto dello scorrere del tempo, però che non riesce a lasciare nulla all'immaginazione dello spettatore, che insiste con descrizioni e dettagli francamente inutili. Insomma, è un film che ho trovato veramente direi inutile, però è un po' troppo forse. Sì, sono d'accordo. Poi insomma fa parte del weekend, anche se è già uscito da ieri questo Piccolo Grande Amore, però insomma non credo che ne vorremmo parlare. Non credo abbia bisogno di altre presentazioni, insomma. Diciamo è una cross the universe alla matriciana, anche se come giustamente fatto notare in sede conferenza stampa si avvicina da Cross the Universe per quello che riguarda alcune sequenze chiamiamole così oniriche, ma fortunatamente non sono i protagonisti a cantare, bensì Claudio Baglioni che rivisita il suo concept album del 72 riarrangiando i brani e secondo me non facendo un grosso favore ai brani stessi. Senti, va bene, poi non so se invece tra i film in sala ti senti ancora di sostenere qualcosa, aggiungiamo. Sì, noi insomma come al solito la nostra funzione è anche quella di segnalare film che magari per difficoltà distributive, per insomma raggiungono molte meno sale rispetto a quelli sì. di cui parliamo solitamente. Io spero sia ancora in sala, spero chi ci ascolta possa ancora trovare nelle sale Mar Nero, perché è comunque un film, mi sa di no, sai, è già stato rimosso. Non l'ho visto ieri sui giornali. Allora niente, magari speriamo in qualche piccola sala, tipo il nuovo cinema Aquila, queste sale qui insomma sul sì. territorio che ripropongono i film in seconda o terza visione, che lo possano riprendere in considerazione. Insomma, un film italiano che è stato molto apprezzato a Locarno e che meriterebbe quantomeno una visione. E invece il discorso si può fare per Beckett. Tra poco sentiremo Fabrizio Gifuni, che nel film recita una parte, che ha raggiunto la quarta settimana al Film Studio, è ancora in a Cagliari e ad Ancona, per cui insomma se la sta cavando. Questo mi fa piacere, io ancora sì. non l'ho visto, però insomma conto uno di questi giorni di vederlo al Film bene, Studio. Bene, lo sosteniamo tutti allora. Valerio, t'abbraccio e alla prossima. Un abbraccio a voi e a te, Federico. Ciao, ciao. Ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Il nostro Pontigia. Allora, come stai? Benissimo. Non potrebbe andare meglio. Primo giorno di sole, scusa. Beh, certo. Io mi accontento di poco. Butta via, dici. Allora, con te per parlare di rispetto alle uscite del weekend. Ah, vedi, con Valerio non abbiamo parlato di Religious. Vabbè. Religious, partiamo da questo. Partiamo da questo. È il nuovo film di Larry Charles, che più non dice nulla, ma è il regista di Borat. Sì. Ritornato al cinema per portare sullo schermo un progetto fortemente voluto dal protagonista di Religious. Religious era il titolo originale, molto più eloquente, perché è tipo una crasi tra Ridiculous religioso in inglese, come cazzo si dice. A parte questo, a parte la traduzione, Bill Maher, comico mediamente famoso negli USA, ha voluto questo che potremmo considerare per certi versi un documentario di inchiesta, per mettere alla berlina le religioni monoteiste, ebraismo, religione cristiana e Islam, mettendole alla berlina per proprio mettendole alla berlina, perché diciamolo sì. che non ha un approccio diplomatico. No, assolutamente non ha un approccio diplomatico. Va in giro per il mondo a trovare casi umani sì. Anche molto divertenti, ma questo, se da un lato è la forza del film, dall'altro è anche soprattutto la sua debolezza. Mi spiego. Sì, sì. È la stessa questione che in molti, non in tantissimi, avevano avvertito anche in Borat, ovvero per citare un noto spot, ti piace vincere facile, potremmo dirla così. In Borat le situazioni erano ridicole, nel senso migliore del termine, perché andavano veramente a prendere dei casi umani. Qua ancora di più, mi spiego, non so, sia per quanto riguarda l'Islam che per quanto riguarda la religione cristiana, non è che vanno a che va il Maher a confrontarsi con dei teologi o dei veri e propri esperti, sì. ma cercano, come dire, nel caso migliore dei buon temponi. sì, nel caso peggiore degli autentici coglioni, perdonate nell'espressione, vanno per esempio in un parco della Terra Santa, in un parco a tema Holy Land negli Stati Uniti, cioè vanno a prendere davvero, come dire, il peggio del peggio delle religioni, quindi le risate sorgono spontanee, ma da qui a considerare poi il documentario diciamo quale... il folklore intorno alla religione, sì, il folklore, bravo, il folklore, le zone d'ombra che sono che sono tantissime e vanno a trovare davvero delle persone, a me viene da ridere perché fa veramente ridere da questo punto di vista, però come dire, come discorso a tesi antireligioso nella direzione di un ateismo, di un agnosticismo consapevole e maturo, beh, la strada è ancora molta da fare. Sì, diciamo anche che ho scoperto delle cose curiose, tipo che esiste un museo creazionista negli Stati Uniti. Quella è un'altra delle chicche, insieme al parco tematico sulla Terra Santa, sì, e sì, penso che sia uno dei due vertici. E la seconda reincarnazione di Gesù Cristo, che è un... Sì, no, cioè, ci sono tutte queste cose che sono molto divertenti, molto simpatiche, però certo. Essendo tali, contemporaneamente diminuiscono quella che dovrebbe essere la vis antagonista, polemica e dialettica del film. Ripeto, anche a Bill Maher, come a Larry Charles, piace vincere facile. Sì, sì, sì. Senti, poi per il resto? Per il resto, di quanto c'è ancora in sala, io consiglio ancora Walzer con Bashir, sì, l'ospite inatteso, e soprattutto Lasciami Entrare, se è rimasto in qualche sala, sì, certo, il vampire movie di svedese di Alfredson, molto, davvero molto interessante. Non mi è piaciuto viceversa né il caso Benjamin Button, parlando delle uscite di questo weekend, che è vero, in pole position per gli Oscar con 13 nomination, ma credo, oltre a sperarlo, che tornerà a casa dalla serata degli Academy Awards il 22 febbraio con molte statuette vere in meno. Non so qual è la tua opinione, sì, in, sì, merito. Sì, sì, ma sì. No, sicuramente. Volevo chiederti, dimmi, l'altro giorno... Di Katyn. Di Katyn, visto, eccoci, che abbiamo sentito la Movimento, bravo, Film che lo distribuisce. Sì, Katyn, film interessante, più che riuscito, la regia è molto televisiva, anche se il regista è un pezzo da 90, Andrei Vajda, già Oscar alla carriera nel 2000, regista polacco che si guarda in casa nel proprio passato e contemporaneamente nel passato oscuro di tutto il suo popolo, quello polacco, perché ritorna ai massacri di Katyn operati dall'Armata Rossa, dall'Unione Sovietica, per volontà e ordine esplicito di Stalin. Il processo di insabbiamento, pensate, dal 41 è durato fino al 1990, quando l'allora presidente della Russia, Boris Yeltsin, confessò esplicitamente questa responsabilità. La cosa strana, soprattutto nell'ondata di film sul nazismo in sala, e che una volta tanto i nazisti fanno la parte dei buoni, nel senso che l'Armata Rossa addebitò loro questo massacro che costò circa 30.000 morti, credo, lo addebitò loro, mentre invece era, come abbiamo detto, era stato ordinato da Stalin con un preciso obiettivo: falciare la classe dirigente, non solo quella militare, della Polonia, per rendere più facile, più semplice e più immediato l'asservimento, appunto, al potere stalinista. Quindi una pagina di storia che la Polonia stessa ha dovuto tenere dentro, senza poter nemmeno portare un fiore su queste fosse comuni, senza poterlo denunciare in alcun modo per decenni, fino a quando appunto il controllo dell'Unione Sovietica è stato tale sul paese, e Vaida la riporta alla memoria collettiva e anche al nostro immaginario, per chi non è polacco e non direttamente coinvolto come lo stesso regista che a Katyn ha perso il padre, lo riporta, dicevamo, sullo schermo con una forma televisiva, ma una volta tanto davvero le buone intenzioni, seppur non riescono a fare un buon film, lo rendono molto interessante. Bene Fede, ti ringrazio e ti abbraccio. Grazie a voi, ma alla prossima, un bacio. Ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori, Fede, come va? Bene, bene, tu? Tutto a posto. Ok. Illuminato da questo bellissimo sole romano, finalmente. Allora, cosa abbiamo visto di interessante? Di interessante poco. Abbiamo visto tanto, ma veramente poco di interessante, secondo me, questa settimana. Vogliamo partire dal film più atteso del weekend, il Benjamin Button di David Fincher. Sì, sì, va bene, dai. Sembra facile partire da questo film, in realtà non lo è assolutamente, perché si è rivelato per me una delle più grosse delusioni dell'anno. È accolto, insomma, da 13 nomination all'Oscar, incassi trionfali, critiche, devo dire, trionfali in America. Secondo me è un film abbastanza inspiegabile, ma prima di tutto perché è un film fatto da David Fincher, che è uno dei registi più coraggiosi, secondo me, in America dell'odierno panorama hollywoodiano. Chi ha sempre rischiato, anche quando ha fatto opere più classiche tipo Zodiac Panic Room, ha comunque impostato uno stile di regia abbastanza personale e che in realtà andava sempre quasi contro i canoni che gli si richiedevano. Invece secondo me questa volta, visto che comunque è una rivista che al botteghino non ha mai ottenuto consensi unanimi, diciamo, stavolta secondo me si è proprio votato. Aveva grosse responsabilità. Esatto, voleva mettere d'accordo il botteghino, il pubblico, gli addetti ai premi. Sembra che ci sia riuscito. Però secondo me è abbastanza tradito, insomma, il suo essere una regista originale, comunque proporre una visione originale delle cose. Sì. L'altro grande difetto del film è sicuramente anche la sceneggiatura di Eric Roth, che allo stesso tempo è comunque uno dei grandi sceneggiatori americani, che ha riproposto praticamente l'idea di base di Forrest Gump, però svuotata di tutte le metafore, di tutta la pregnanza che c'aveva la storia del film di Zemeckis, insomma. Questo infatti a me ha sconcertato molto del curioso caso di Benjamin Button, che ha un impianto narrativo gigantesco, lungo, il film dura quasi 3 ore, e sembra che sia una scatola pronta per contenere una marea di metafore, di testi importanti, di racconti anche sull'America, sulla sua storia, sulle sue contraddizioni, e poi in realtà si rivela soltanto un melodramma che parla la questione d'amore, per carità, magari funziona anche nella seconda parte, però è soltanto quello fondamentalmente, quando ad esempio magari Forrest Gump era anche molto altro, insomma, a prescindere poi dal fatto che il film di Zemeckis piace o no. Non so se sei d'accordo. Sì. Sono andato senza grosse aspettative, al di là del clamore di tutte quelle nomination all'Oscar, però mi aspettavo, insomma, un film di grosso impianto spettacolare, e così è stato, ma abbastanza deludente, insomma. Sì, esatto, abbastanza. senza sprazzi del talento che di Fincher, insomma. Sì, esatto, assolutamente. È un film appunto che lavora soltanto su un livello, quello della storia d'amore e quello melodrammatico. Anche l'idea bellissima del racconto di Fitzgerald, di quest'uomo che praticamente in lettere al contrario si prestava veramente ad essere metafora di tantissime cose, e qui è usato come un purissimo mezzo narrativo per raccontare la malinconia di una storia d'amore. Sì. Gente che invece raccontare, mi sembra un po' semplicistica come opzione, ma sia poi l'eventuale metafora che la storia d'amore sono entrambi deludenti. Anche la storia d'amore non ha uno sviluppo non esplode, sì, sai che c'è, secondo me anche la storia d'amore è settata male, perché in un film di 2 ore e 3 quarti in realtà parte soltanto dopo 1 ora e mezza. Sì. E alla fine, quando questi due veramente iniziano a stare insieme, già ti sei stufato di aspettare, insomma, praticamente. Poi sì. Vabbè, hanno anche lodato tantissimo l'interpretazione di Brad Pitt. A me è sembrato un po' bollito, sinceramente. Molto meglio la Blanchett, che comunque anche qui non è sicuramente al top della sua capacità interpretativa, per carità. Siamo ben lontani, insomma. Senti, e invece ci siamo incontrati anche a Religious, ne abbiamo parlato sia con Federico poco fa, ne abbiamo con Daniela Catelli all'inizio trasmissione, insomma, dici anche la tua. Beh sì, Religious secondo me è un documentario molto molto divertente. Mm-hmm. E questo è soltanto il primo strato dell'opera di Larry Charles. Il secondo racconta veramente in maniera molto lucida il fatto che comunque, cioè nel come la religione, quando diventa un'impostazione dogmatica, un'impostazione che va oltre veramente i dettami dell'equilibrio umano, praticamente, diventa alla fine una forma di fanatismo. E questo è l'aspetto più importante del documentario di Charles, secondo me. Mm-hmm. Poi il fatto che sia raccontato in maniera assolutamente spassosa da Bill Maher, che comunque ci si diverta a prendere in giro tutti appunto i vari aspetti fanatici di qualsiasi tipo di religione, quello secondo me è la superficie, appunto, è la confezione. Il contenuto, sì, è molto più importante della forma, secondo me, in questo documentario. Mm-hmm. Un documentario che veramente mi sento di consigliare. Bene, poi tra quelli in sala mi sa che tu avevi già segnalato tutto, vero? Sì, la settimana scorsa ci avevamo fatto un bel riassunto, tutto quello che ho perso nelle settimane precedenti. Ok, allora Adriano, un abbraccio e alla prossima. Stai bene Federico, un abbraccio. Ciao. Fabrizio Gifuni, buon pomeriggio. Eccoci. A voi, come stai? Ciao. Bene, bene, molto bene. Allora, mi è arrivato tra l'altro stamattina una mail di Davide, Davide Manulis, parleremo con Teddy Beckett che tu interpreti, sì, che mi diceva che oltre al fatto che è alla quarta settimana al Film Studio, resiste anche a Cagliari e ad Ancona, per cui è ancora in programmazione. Ah, ottimo, questa è una notizia che mi stai dando. Ottimo, ottimo. Nonostante mi scambi 10 mail al giorno con Davide, non avevo le notizie di oggi ancora. Allora, Fabrizio, tu avevi conosciuto l'opera, il primo film di Davide Manuli, Giro Tondo, Giro Attorno al Mondo. Esatto. Eri andato a vedertelo al Cineclub Il Labirinto. Esatto. E lì sei rimasto colpito dallo stile di questo regista. Sono rimasto veramente, si può dire in questo caso, folgorato veramente. Non lo so, mi è sembrato una specie di meteorite piovuto in questa landa semidesolata che è questo paese che si chiama Italia. No, ero rimasto molto molto colpito, tra l'altro l'avevo visto casualmente, non lo conoscevo, non me ne aveva parlato nessuno. Sono rimasto colpito dal suo mondo, oltre che dal suo stile, dalla sua arte, dal modo in cui raccontasse attraverso quella storia così un mondo doloroso, ma con un'energia e con una vitalità sconvolgente proprio, e poi con uno stile straordinario. Insomma, secondo me Davide è veramente un talento puro. E poi sì, dopo quella serata al Labirinto l'ho conosciuto un po' di tempo dopo a un'altra proiezione di Girotondo, mi sembra all'Apollo, e ci siamo conosciuti, e da quel giorno così è nato un rapporto, oltre che di amicizia, anche di collaborazione. Poi lui aveva scritto due progetti che non sono mai partiti, a cui dovevo partecipare, e finalmente un po' come Frick e Jaja, come due Vladimir ed Estragone del film, che stanchi di aspettare Godot si mettono in cammino, si è preso la sua macchina e per 13 giorni ha filmato così questa Sardegna post atomica di Beckett. So, che cosa ti, al di là dello stile di Davide, della sua bravura, cosa ti colpiva della storia di questo Beckett? Beckett, vabbè, ovviamente sai, per un attore che continua a mettere il teatro così al centro del suo lavoro, già era una storia più che appetibile. Insomma, Beckett resta uno dei pochi capisaldi del secolo che abbiamo chiuso. Però sai, questo non bastava, perché poi sai, il teatro non sempre portato al cinema da dei buoni risultati, se non è come dire trasfigurato nello specifico filmico del cinema. E Davide, secondo me, ha avuto la grande capacità di utilizzare il materiale di Beckett, intanto non mettendo in scena Aspettando Godot, ma mettendo in scena uno strano sequel di Aspettando Godot, no? Sì, è come se la storia di Beckett inizia dove finisce Aspettando Godot, e quindi facendo un'operazione assolutamente originale rispetto al testo di Beckett. Ma è questo insomma, sì, fondamentalmente. Sì, sì. Anche il fatto, insomma, che ha affrontato la materia in modo del tutto visionario, e si è dotato anche di un bianco e nero che io ho trovato splendente proprio. Sì, il bianco e nero è splendente, la fotografia di Tarek è meravigliosa. Hanno usato una pellicola, insomma, hanno fatto molte prove per trovare una pellicola che avesse anche proprio la durezza necessaria per raccontare questa storia, però è piena di luce, insomma, piena di luce. Allora ricordiamolo al Film Studio, ancora in programmazione per quanto riguarda Roma, e in chiusura ti chiedo se ti vedremo presto in qualche altro lavoro. Ma sì, a questo punto sì, diciamo c'è il progetto che partirà fra un paio di mesi, sarà un film per la televisione con Marco Turco, con cui ho già lavorato nel 98 in un bel film che si chiamava Vita in sospeso, che era un po' la storia dei rifugiati, di alcuni rifugiati di lotta armata a Parigi, che era un film con Ennio Fantastichini, che andò a Venezia appunto nel 98, e ritorno a lavorare con lui su un progetto su Franco Basaglia, dove interpreterò Basaglia. Bene, allora un abbraccio e magari ci risentiamo presto. Grazie, a presto. Ciao Fabrizio. Ciao. Ed era Fabrizio Gifuni, attore in Beckett di Davide Manuli. Noi siamo veramente un po' in ritardo e per cui ci salutiamo qui. L'appuntamento è per giovedì prossimo dalle 14 alle 15, 87 900 modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa.